Wolf Trips, i viaggi del lupo. È un po' infreddolito, iniziamo la nuova puntata di Wolf Trips. E noi siamo un programma di podcast di musica e prettamente net label, insieme ai miei compari che oggi li vedo molto, non lo so, sconclusionati. Cosa state combinando? Dopo vengo lì a sistemarvi. E oggi è la puntata numero 11, caro Tony, che ti vedo sempre più sconclusionato, non so cosa stai combinando. E il programma va in diretta in FM o in replica sui vari podcast che potete trovare sulla nostra pagina di Wolf Trips oppure sul Spotify, su iTunes, un po' ovunque, diciamo. Tra poco saremo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook di Wolf Trips. Buonasera. E salutiamo, vabbè, io ho già iniziato, ho parlato a più non posso, direi che ho parlato anche abbastanza. Saluto la Cree e Tony dall'altra Ciao. Parte della scrivania. Io arrivo in ritardo, Tony. Sì. Una volta si dice dall'altra parte del vetro, ormai è dall'altra parte della scrivania. Fabio è qua che sta trepidando con i suoi jingle. E la Deborah è lì presa con il cellulare. Insomma, la formazione classica. La nostra formazione classica. Sì, siamo ridotti così. Sì, sì, sì, sì. Ci hanno abbandonato un po' tutti, no? Ma va bene anche così, dai, va bene anche così. E il primo brano che andiamo a ascoltare questa sera è dell'etichetta Control, è scritto così, non mi guardare strano. È scritto così e l'ho pronunciato così, secondo me è giusto. E il brano è di Paradigma. In realtà è scritto Paradigma, però se io lo pronuncio dall'italiana, inglese, Paradigma. Sì, Paradigma. È un artista russo, da quanto... Sì, la descrizione su Discogs è chiara. No, la cosa interessante è che questo brano, uscito nel 2012, quindi questa sera partiamo un po' con il 2012, mi piaceva come anno, è incluso in una compilation molto interessante che è stata fatta sia dall'etichetta Control che dall'etichetta Phonocake, che abbiamo già ascoltato n mila volte, e si chiama Meta Galaxy Festival. È abbastanza interessante. È una cosa che... Una collaborazione tra le due etichette. Tra due etichette. Okay. Tra l'altro, intanto che stiamo ascoltando in sottofondo il brano, dalla settimana scorsa nei podcast trovate anche il link per scaricare il brano, visto che tanto è tutta musica in download gratuito, perché se uno saliva... Perché no? Perché no? Va bene, andiamo a ascoltarcelo. Sleep. questa sera partiamo con questo brano trip hop di questo artista che si chiama Paradigma Away, con la collaborazione di Mr. Moods. C'è anche questo, quindi ce lo prendiamo tutto nel titolo della canzone. Sempre nel 2012, continuando un po' con la nostra playlist, saltiamo un altro artista della Dust That Walks Kingdom. Lui è Frenic, che è un artista l'etichetta è della Bulgaria, credo anche l'artista. E dicevo, rimaniamo sempre nel 2012. Effettivamente in quell'anno lì è uscita molta roba interessante. Anche, non so se ti ricordi, Tony, brani tipo The Chemical Brother. C'era, diciamo che la musica elettronica in quel periodo lì era... Allora, non sono nati nel 2012, lo so che tu stai facendo quella faccia lì. No, perché mi ricordo che comunque... Però c'era molta roba elettronica che era in quel periodo lì era molto... Diciamo una specie di rinascita dopo gli anni 90. Come un po', sì, bravo, c'è stato... Anche i Chemical Brothers hanno avuto un periodo un po' così. Sì. Gli ultimi due dischi sembrano un po' migliori. Invece noi adesso andiamo ad ascoltarci questo brano di Frenic. Intanto vedo che lì abbiamo... Noi il... dobbiamo stare tutti vicini. Sì. Abbiamo l'Arca di Noè. Sì, infatti. E l'artista, dicevo, che era Frenic, il brano si chiama... Future Feels Good. Dai, ci sta. Sì, beh. Il genere, anche in questo caso, ci spostiamo un pochettino da quello che avevamo ascoltato prima, che era il trip hop. Qua ci spostiamo un po' sull'electronic hip hop e qualcosa di simile. Andiamo ad ascoltarcelo. We'll be right back. lui si chiama Sam Ferguson. Ferguson. Ha fatto una marea di roba, tra l'altro. In arte Frenic, scusate, praticamente l'abbiamo chiamato, prima l'abbiamo chiamato Frenic, poi Frenic. Rientriamo con Sam DJ Ferguson. Poi. Sì, sì, è un DJ. È DJ Frenic. E fa del DJ per 16 anni, quindi da ben 16 anni. Il genere varia un po' tra il jazz, l'hip hop, il soul, insomma, un artista eclettico lo definirei. A me non dispiace come non immagino la sua collezione di dischi. Deve essere bella ampia. Sai, sarebbe... quelli che hanno dietro, diciamo, dei non dei muri, sì? degli edifici di vinile. Sì, è vero. Che poi è vero, spaziano è vero. Dall'R&B, quelle queste cose qua. Sì, sì, è vero, è vero. Tra l'altro, a me piace molto anche proprio le produzioni che fa, utilizzano sempre della molta grafica. Cioè, vintage, non... dici? Sì, sì, sì, sì, ha un po' quello stile retro. Ok. Intanto, te ti vedo sempre più persa. Ti sei ripresa? Sei tornata sì, sì, tra no, di no, noi? Ci sei, dai, meno male, va, meno male. Intanto continuiamo la nostra cavalcata musicale. Oggi invece continuiamo col brano che si chiama, dimmi. Prima però ricordiamo il nostro numero di telefono. Lo so, stasera siamo stati un po' tutti super frenetici, ci siamo dimenticati abbiamo difficoltà con i contatti. Le basi vai, stasera, vai. Ci devono scrivere, no? Sì, prego. Allora, 340 136 17 per WhatsApp, se vogliono anche chiamare, va bene. E invece, se no, ci possono seguire dalla diretta Facebook. Ricordiamo che non ci sentono, ma sì, non sentono la musica, purtroppo. La musica, però, ci sentono quando parliamo. La musica la devono sentire sull'app. Sull'applicazione, certo. Oppure sul sito, sul podcast, ci trovano dappertutto. Ormai siamo international, quindi. Yes. Sì, anche in varie radio, non stiamo a specificare di più. Continuiamo sempre nel 2012, ho fatto tutto un lavoro di ricerca in questi giorni, musicale. Ci spostiamo su un brano che abbiamo già ascoltato ed è della Block Sonic, non poteva mancare questa etichetta. Queste a noi sono, molto sono cara. Nomination agli Award. Ma vedremo. Tra un paio di settimane faremo la puntata speciale. Il 28, che poi sarà un po' la nostra ultima puntata dell'anno e ci fermeremo anche un attimino. Sì. Andiamo ad ascoltare quindi Cali con Stack. Abbiamo già ascoltato questo brano, ma ce lo riscoltiamo volentieri. Perfetto. With me, girl, you stuck with me. Questo brano era contenuto nella NetBlock volume 40, quella versione che avevamo trovato Air Attack, che sì, era la un copertina po'... anche col numero 40 ci sta bene, perché ci sta bene, è un aereo della Seconda Guerra Mondiale, no? Sì, poi ti devo dire, l'altra volta infatti abbiamo parlato di questa NetBlock e non so se magari sotto la nostra spinta effettivamente è uscita una nuova, uscirà una nuova compilation della Block Sonic, quella... quindi sì, sicuramente avremo modo di passare i loro brani. Saremo accreditati, non credo. No, vabbè, dai. Vabbè, accreditati no, però gli romperò le scatole per avere qualcosa in anteprima, quello va sicuramente. Bene, va bene. Passiamo invece da un brano cantato in lingua inglese a un brano invece in italiano. Passiamo ai Quiet Bump, però prima volevo anticipare un'informazione. Aspetta, no, devo fare i complimenti al nostro super tecnico che ci ha svoltato la serata. Sì, sì, sì, sì. E, stavo dicendo, stasera abbiamo due ospiti, ben due ospiti. Oddio, aspetta, ho cadato di Italia troppo presto. E, dicevo, avremo due ospiti. Uno si chiamano i Voodoo Tapes, che erano... abbiamo passato un sacco di volte i loro brani. Sì, a me ricordo. Piacevano molto. E fanno l'intervista. Sera faremo l'intervista. E comunque anche loro fanno parte dell'etichetta Quiet Bump. E poi avremo invece un ragazzo che da un bel po' che sono in contatto con lui. Pensa, da prima che iniziassimo il programma, quest'estate già ce l'avevamo sentiti, che è della etichetta Brainstorm Lab. È un'etichetta sperimentale, cioè loro fanno veramente roba strana, sempre net label, e fanno roba molto particolare. Mi ha proposto un sacco di brani, diciamo, in crescendo di sperimentazione e particolarità. Io ho dovuto un po' frenarlo un attimino, però in realtà ascolteremo comunque qualcosa della loro etichetta e faremo anche due chiacchiere con lui stasera. Eh sì, sì, sì, sì, lui infatti sta aspettando che lo chiamo, ma lo tengo ancora un po' sulle spine. No, non è vero, no, eravamo d'accordo che l'avremmo chiamato tra un po'. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, quindi sempre delle Quiet Bump. Dicevo, questo è un brano in italiano e lui è Mu. Come le caramelle. E il brano si chiama Non è possibile. Non sono riuscito ancora a rintracciare il cantante, perché volevo intervistarlo, ma ti devo dire la verità, non riesco a rintracciarlo, è poco social. Salire la corrente, l'aria pesante comprime tutto quanto inutilmente. Ora forse è troppo tardi per imprimere un'altra rotta altrove da un'altra parte e poi confondere le acque torbide, la linea inutile, le ombre che da sole vorrebbero eludere il contatto con il nulla intorno al quale intercedere, rallentare il ritmo cardiaco e poi soccombere, confondere il buio con il sole, urlare a voce bassa l'agonia attraversare, nel fango e nei detriti si condensa la paura, sotto i riflessi della luna la mia terra, confondere il buio con il sole, urlare a voce bassa l'agonia attraversare, nel fango e nei detriti si condensa la follia, l'azzurro si misura con la mente pura. Questa è una serata un po' pazza, perché abbiamo gli speaker che si stanno praticamente no, uccidendo da soli e praticamente rimarrò da solo. Secondo me questa sera ne rimarrà solo uno. Se volete vedere la diretta di Facebook, vedete tutte queste cose che stanno succedendo, bellissime, però vabbè, diciamo che sarebbe anche bello avere degli speaker poi. In realtà ne siamo più buoni. Infatti. Infatti vedi, guarda, si sta proprio vedendo la scena dell'ammazzamento di Tony. Abbiamo ascoltato il brano di Mu con Non è possibile, dell'etichetta Quiet Bump, e sempre rimanendo un po' nell'ambito dub, che così introduciamo anche gli artisti che verranno nella prossima mezz'oretta, ascoltiamo un brano dell'etichetta invece Ragga Wise, giusto per non sbagliare. Come si dice, Tony? Ragga Wise. Lui è Digital Monk, forse abbiamo già ascoltato questo brano, però... è bellino. La copertina, una nota così a margine, la copertina è un QR code, non so se poi fotografandolo ti porta su qualcosa, sarebbe interessante. Sai che questi qua sono dei simboli, se voi andate a vedere la copertina. Dimmi? Può far sentire la canzone? Ma può essere magari che rimanda a questa pagina, di Bandcamp. Sì, sì, sì. Che non esiste anche altro, cioè anche l'LP, c'ha tutta la copertina. No, lui praticamente effettivamente vende, ha fatto proprio una serie di CD, ha prodotto anche in modalità, come si dice, raw, come si può dire, reale, ecco. Real. Non lo so, non è solo in musica, sì, digitale, ma vedi anche come compact disc, è rimasta questa cosa arcaica. No, vabbè, appunto volevo dire che ho letto questa settimana che quest'anno sarà l'anno veramente nero per le vendite del CD, perché sì, gli altri anni comunque scendeva di poco la percentuale rispetto all'anno prima. Quest'anno è sceso tanto. 40% in meno del 2017. Comunque io devo dirti la verità, girando un po' su Bandcamp o altre cose, ho visto che oltre al download, che può essere gratuito o meno, effettivamente le net label stanno riprovando a lanciarsi o nella stampa di CD o, come hai sentito l'altra volta, nella stampa proprio di cassette. Sì, cioè sì, ti vendono la cassetta. Penso che per certe cose il supporto fisico è molto più bello. È più bello, dai. Tu non avevi ancora qualche CD in casa? Tu hai comprato ancora qualche CD? No, forse hai comprato, no, però... Sì, io li ho comprati, li comprerò sempre. E ho anche le musicassette. 7. Le musiche a 7 che ovviamente chi cacchio li ascolta più. No, no, stanno, sono tornate di moda. Adesso non, io non ho ancora visto nessun... Io ho ancora un vecchio... come si chiama? Mangianastri. Mangianastri. Mangianastri. Mangianastri. Come sono, no, com'è che si chiamava quello delle cassette? Mangianastri. Mangianastri. Sì. Andiamo a ascoltare Digital Monk con Chatti Chatti Dub. Gangsters in your own people, people business, gangster left, check, what can you say, who say? Chatty chatty mode always cause a disaster, look with some time up and after, innocent man, all of the true in front of him farmer, but that cannot reach a gangster, true, we see him blind, yeah man, we hear him devil, people business, gangster left, check. When we find out, say a boy a new scary, cross the friendship, he put we barrier. Who me say? Gangsta no mix neither mingle. We not keep friend with informer people. God, when your friend chatty chatty, I was serious something. It cost jail out and all day too. Oh, me some of that one thing me a ask you. How will you talk so much? You must swallow radio. But from your speak, people business win a power. We'll be right back. storie di Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi per due ore di musica underground. Siamo rientrati dalla nostra piccola brevissima pausa e abbiamo ancora in sottofondo il primo brano che ho selezionato dei Voodoo Tapes, che era un brano che abbiamo già ascoltato e aveva fatto anche un po' di furore, che era la lunga marcia dei polli neri. Cioè, in realtà avevamo cercato anche se esisteva il pollo nero, effettivamente. In realtà il titolo originale è The Long March of the Black Chickens, quindi dei polli. Sì, giusto, esatto, giusto. Black chick. Chickens. Allora, loro sono i Voodoo Tapes e sono un membro storico dell'etichetta Quiet Bump. Il fondatore, diciamo, il cofondatore un po' dell'etichetta ed è Giovanni Roma, che spero di riuscire a raggiungere al telefono a breve, anzi, se ci sta ascoltando, magari E, loro sono praticamente musica elettronica, secondo me hanno anche molta influenza con la musica dub. Ci sta, è un bel genere, un bel sound, a me piace molto. Poi dopo ascoltiamo anche uno dei brani che, devo dirti la verità, da quando è iniziato Wolf Trips mi sta un po' tormentando, nel senso che lo ascolto spesso e volentieri. Continuiamo un po' con la loro musica, intanto vedo se riesco a mettervi in contatto. Voi vi siete ripresi intanto, che vi vedo un po' dai. Più calmi adesso, no? Sì, no, ci siamo ripresi. Allora, lui è un po' dolorante. Anzi, io l'ho preso stasera. Anche ripreso. Secondo me, se ti riguardi la diretta Facebook, capirai di più cosa è successo questa sera. Se no, ancora devi metabolizzare bene. È vero. Sì. Allora, andiamo a ascoltare quindi un altro brano dei Voodoo Tapes con Remain the Same. The Same. Rimane lo stesso. Rimane lo stesso. Sì. E loro hanno prodotto praticamente tutto con Quiet Bump, anche perché effettivamente essendo uno dei fondatori, quindi ricordi quando abbiamo fatto la prima intervista, parlavamo un po' con Carmine, adesso non mi ricordo come si chiama. Adesso mi chiedi troppo, Carmine. E che ciao dice, Carmine. Che diceva effettivamente che loro l'idea dell'etichetta l'avevano lanciata più che altro per le loro produzioni, sì. Per le loro produzioni, quindi ci sta che un po' tutto quello che ha prodotto come Voodoo Tapes poi rientri nel Quiet Bump. Questo qua era un brano del 2014, quindi neanche troppo indietro nel tempo. E non è, mi sembra che sia forse una release con solo questo, cioè guardando un po' da Bandcamp mi sembra che fosse un album, sì, eccolo qua. Era un album tipo di sei brani dal quale abbiamo estratto questo brano che si chiama Remain the Same. Traccia numero 5, giustissimo. Carina anche questa di copertina. Sì, questa è un po' particolare, sono delle manette effettivamente, sì, su no, un fo. Sono proprio catene. Sì, due manette. Ma manette, sì, manette. Una catena con due manette. Dei bracciali. Ecco. Sì, un po' più strong. il prossimo brano è sempre da questo album. No, l'etichetta sì. No, sempre da questo album che è Colonial Blend Extra Bold. Già dici allora perché ci sono le manette. Sì, cioè, infatti. I bracciali della schiavitù, diciamo. Tra l'altro è bellino anche il fondo della texture, che sembra, sembra tipo un sacco di juta, no? Sì, non dà quell'impressione lì. È un sacco sì, sì, di per ricordare juta. L'idea, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Vabbè, dimmi, dimmi. Sono veramente, veramente brutti. Cioè, ti viene un'ansia ad andare lì nei campi di concentramento. No, questo secondo me sì, non no, è. No, no, però anche, campi, sì, beh, quindi mi è venuto in mente quando. Questo è peso di raccolta di una schiavitù dei negri. Sì, sì, sì, perché sì, colonial sì. Mi viene in mente proprio, mi dà quel rimando lì. Beh, colonial purtroppo sono brutte parole che speriamo che non li sentire più. Giusto, speriamo. Giusto, giusto. Andiamo ad ascoltare il brano che è sempre estratto da questo album ed è Lyrical Painter. Fit Idren Lion Idren Lion Warrior. My test one, my test two, mi se budo, mi se budo. My check one, my check two, mi se budo, mi se budo. You know what I mean, I'm a lyrical painter. Lion warrior up on the microphone, senta war. Lion in a D's. Run it! You know what I mean, I'm a lyrical painter, lyrical maker, lyrical trainer. You know what I mean, I'm a lyrical, lyrical gunman of the true bantan. You know what I mean, I'm a lyrical painter, lyrical trainer, lyrical maker. You know what I mean, I'm a lyrical, lyrical gunman of the true bantan. Riding from the rhythm on a inner improv. Me see the point of divorce, I say clip on my famo. Jump up in a dance and make sure you scream blow. One for the crowd, two for the show. Black are the roots, blue for the sea. Red is the one blood, my weed is green. And no matter where you come from, no matter where you live, no matter is the color of your skin. Every time lyrics are rhyme all the time, but I forget I'm in time, on time, show time. Sublime, listed to the flow, is big automatic. Wallipa style, Wallipa technique. Give me the paper, let me write my music. Strictly on a zone, straight on the streets. Give me the microphone, let me sing my music. Strictly on a zone, straight on the streets. Them ask me, liar, you good? Everything nice, everything cool. Me can't speak the truth, reality for the youth. Music is the salvation. Stiamo ascoltando ancora in sottofondo Lyrical Painter e dovremmo aver anche recuperato Giovanni, che è uno dei fondatori di Voodoo Tapes. Ci sei, Giovanni? Sì, eccomi. Oh, eccoti qua, eccoti qua. Ti abbiamo recuperato in zona Cesarini, dai. Sì, sì. Però guarda, stavo registrando, c'avevo la suoneria staccata e... Cosa stavi registrando? Comunque... Qualcosa di nuovo, quindi? No, ma non, io lavoro con tedeschi. Ok. Okay. Pensavo qualche anticipazione del tuo progetto. Ascolta, stiamo preparando un album che uscirà sulle White Bump insieme a Sonachia, che è il bassista che ha suonato, diciamo, in tutto il disco. Quindi siamo già a un punto abbastanza avanzato, anche perché le tracce che sono appena uscite risalgono comunque già un anno e mezzo fa, che sono uscite adesso. Quindi abbiamo già da parecchio stiamo lavorando all'altro. Perfetto, cioè perfetto. Materiale. Sempre su A Quiet Bump, giusto? Cioè, quindi l'etichetta, sì, sì. Ok. Ma parlaci un po' del vostro progetto. Abbiamo ascoltato un po' di robe un po' più vecchie, dal 2014 in giù. Allora, guarda, ti spiego. Voodoo Tapes è una storia abbastanza strana. perché nasce dalla mia volontà quando si è fondata i White Band. Io ero molto un outsider, cioè facevo le stesse cose degli altri, però la musica che facevo all'interno di White Band era molto diversa ed era Black Era, che è praticamente un progetto di pop. Però avendo a che fare sempre con loro, andando a suonare insieme, diciamo il loro modo di intendere il dub, che non è il senso di dub reggae, ma il modo di produrre, cioè suonare col mixer, suonare con gli echi, questa cosa mi aveva sempre molto affascinato. E quindi quando diciamo, il progetto che facevo Trip Hop si è inabissato, ho detto voglio fare questa cosa. E c'avevo questa visione molto giocosa, infatti se senti queste tracce qua sono molto più happy, molto più... Sono quasi tutte cantate, cosa che poi col passare del tempo ho un po' perso l'interesse, perché io e la mia ragazza abbiamo cominciato a usare queste tracce quando ci andavamo in viaggio e comunque erano troppo corte. Allora ho detto che faccio, inizio a fare delle tracce quante più lunghe, molto più lunghe, quanto più scure possibile, così se le mettiamo là siamo tranquilli. E in effetti poi tutta la seconda produzione di Linux, quella senza voci, quella più morbida, più... Sì, noi Black Era effettivamente qualche... Adesso ho capito anche dove c'è stato, perché noi ce l'hanno sentiti, finalmente forse avevamo detto... Ti avevamo associato a un altro progetto, però in realtà era Black Era che dovevamo associarti. Abbiamo sentito già qualcosa, la verità, a me piacciono molto, come brani. Ma guarda, stiamo parlando di musica che è stata prodotta dal 2003 al 2005, cioè. Sì, però fa ancora la sua figura, secondo me. Qualche brano ancora lo passiamo, devo dirti la verità. Adesso volevo ascoltare un brano invece, probabilmente uno degli ultimi che avete prodotto, che si chiama Antonio Weather Protect. Dovrebbe essere quello dell'ultimo EP, giusto? Esatto, sì. Questo è un pezzo dedicato a una persona che non c'è più. Ah. Che infatti significa Antonio ovunque proteggici, nella migliore tradizione napoletana. Abbiamo fatto bene allora a parlarci, almeno abbiamo scoperto qualcosa in più su questo brano. Andiamo ad ascoltarlo e poi dopo ci risentiamo subito dopo. Va bene. Questo brano, sempre The Voodoo Tapes, è uscito nel 2018, 23 novembre 2018, sempre su Quiet Bump. Ci sei, Giovanni? Ci sei ancora in linea? Ok, ok. Niente, quindi ci dicevi che comunque negli anni avete un po' rivoluzionato, hai un po' rivoluzionato il vostro progetto a livello anche di come produrre la musica, di come avevi concepito il tuo progetto, giusto? Sì, perché comunque le necessità cambiano. Io per lavoro sono sempre in macchina, quindi ascolto molto la musica narcotica, diciamo, che e quindi fondamentalmente poi quando suono, creare della roba che ha troppa, applica troppa attenzione su di sé, mi scoccia un po'. Ho quindi capito. Preferisco queste cose molto, questi cuscini, diciamo, più dub, quindi, proprio, diciamo, proprio l'idea del dub, quindi in questo caso sì guarda, c'è sempre una contrapposizione fra un vago sapore roots, tu hai messo questo pezzo qua che è un po' più tech. Sì. Un po' più, però c'è sempre questo vago sapore roots, e poi tutti gli accordi sono sempre bianchi, perché okay, comunque poi deriva da altri tipi di ascolti. Questa è una cosa che si ascolti che ti trovi un po' ovunque. C'è, per esempio, c'è l'ultimo pezzo dove c'è proprio una migrazione da un fatto che se lo ascolti da solo è proprio roots, e poi gli accordi poi sopra sono proprio di un altro genere. È un accostamento che mi piacciono fare. No, è molto interessante, molto interessante. A me non dispiace. Intanto volevo chiedere ai miei soci dall'altra parte se avevano qualcosa da domandare, qualche curiosità. Nulla. Ciao, io sono Antonio. No, sto ascoltando benissimo l'intervista, perché stasera ascolto più la musica che le mie parole, mi sembrava un po' di, come dire, disturbare. Complimenti. Si alzi un po' la voce perché non ti sto sentendo. Ah no, scusa, volevo dire che stasera, siccome la musica mi ha preso veramente... Ciao, mi chiamo Tony. Ah, grazie. E non ho parole stasera proprio per dirti quanto veramente sei stato bravo. Veramente dai l'impressione proprio di una musica molto, come dire, personale, no? Sì, cioè... sì, grazie. Ciao, sono la Cri, ciao. Ciao. Proprio esprime veramente emozioni la musica, veramente proprio bella, complimenti, bravo. Grazie. Questi accordi che senti, che sono qua sopra, sì, è una cosa un po' romantica questa, però è la verità. Praticamente è l'ispirazione di questa persona che quando ti guardava, cioè ci guardava sempre con ammirazione, e praticamente c'era sempre la meraviglia negli occhi di questa persona che era sordomuto, e quando aveva a che fare con noi che suonavamo quando eravamo piccoli, ci considerava proprio delle persone. La meraviglia che c'erano negli occhi di queste persone sono quegli accordi che ti senti là dentro. È veramente una cosa che non mi ha chiesto nessuno fino adesso. Quando hanno ascoltato il pezzo, a nessuno è venuto in mente di chiedere. Cioè il senso, il fatto, perché è veramente una cosa sentita. Cioè, quando abbiamo fatto questa cosa qua, io stavo pensando a quella cosa là, a quel senso di benessere che ti dava lo sguardo di questa persona. Beh, questa è una cosa molto bella, effettivamente, produrre musica che poi dopo con il cuore, con il cuore è legata, sì, a qualcosa che, sì, comunque, sì, senti dentro, quindi personale. È proprio, sì, molto interessante. E noi vogliamo ascoltare l'ultimo brano, in realtà, che non c'entra nulla, diciamo, con questo discorso. È un brano che a me piace tantissimo, nel senso, penso che mi sono proprio affezionato. E è un brano forse un po' più allegro, mettiamola così, un po' più cacciarone, un po', non lo so, a me piace molto. E il brano si chiama Voodoo. Sì, ed è estratto dal primo EP, che è il Samedi Night Fever, quindi immagino una cosa molto, come dicevi all'inizio, no? Un po' più giocosa. Sì, ma il titolo lo dice stesso, cioè sì, la festa del sabato sera, però usando Samedi, che è il termine voodoo, per indicare il Baron Samedi, quello che, diciamo, il capo stregone, sì, infatti la copertina è proprio con uno stregone. La copertina l'ha fatta Red Dog.

E abbiamo lasciato prima i Voodoo Tapes e adesso invece riprendiamo con al telefono Julian Frank, che ci senti? Vediamo se ancora. Sì, ok, sento, ok. Ciao! Sì, sì. Ciao, perfettissimo. Lui è il fondatore, possiamo dire, della Brainstorm Lab. Dici un po' che net label è. Che... Sì. Non so se sei fondatore, sinceramente, non ho trovato informazioni. Dico sempre cofondatore perché cofondatore. L'ho fondato con un amico mio nei tardi 90, ma non come net label assolutamente. Era semplicemente un formato su cui facevamo uscire le nostre produzioni, che all'epoca erano non definibili. Forse, quindi anni 90 perché... addirittura, comunque. Sì, sì, no, ah. Sì, 99. Sì, sì, sì. Beh, un bel po'. Effettivamente, quindi è da tanto che producete. Sì. Poi il sito è venuto nel 2002, okay. Perché diciamo che come lo conosciamo adesso, la net label è iniziata nel 2002. Però è nata proprio come cosa di buttare gente di diversi orientamenti musicali. Voi siete molto sperimentali, insieme. Effettivamente. Io mi sono ascoltato un bel po' di robe, a parte quelle che mi hai mandato tu, che poi ascoltiamo in puntata. Avete musica proprio sperimentale, penso... A livello sì. Italiano penso forse quella più sperimentale che abbiamo ascoltato barra ospitato, devo dirti la verità. Sì, sì, sì. Beh, è un onore. No, no, beh, l'intento si vede che è quello, perché comunque, cioè, non credo che avete roba proprio, praticamente mainstream, no? Cioè, l'intento penso che... Quindi... Anche le cose che vi ho mandato sono tra i più accessibili anche. Ecco. Sì, no, effettivamente, allora, devo dirti la verità, facendomi, cioè entrando un po' nel mondo delle net label, trovi di tutto. Adesso, sì. Vabbè, visto che sei anche da un bel po' di anni nell'ambiente, ci puoi dare anche tu un feedback, nel senso... Parlo anche con i miei soci con cui stiamo facendo questo viaggio nella musica, no? Trovi delle etichette, tipo, non so se la conosci, la Brusio Net Label, che non l'abbiamo mai passato, effettivamente, però è un po' un... è comunque uno standard a livello italiano, però fa roba, nel senso, radiofonicamente inaccessibile, secondo me, perché loro fanno molta musica con i rumori, come si può dire? Sì, no? Sì. Quindi, cioè, mi pare sono anche molto minimalisti, Brusio. Brusio, ok. Non lo so se industrial, secondo me è proprio ancora di più, nel senso, sì, devo farti sentire qualcosa fuori onda. No, diciamo che conosco, perché sono anche loro più o meno del giro, insomma, delle net label, che poi uno si ritrova online, diciamo, un incontro fisico succede talvolta, però spesso e volentieri sono anni che chatto con le stesse persone che magari non ho mai visto in vita mia. Se fossi dalle parti nostre, di dove siamo noi, potevi venire a farti un giro anche direttamente negli studi, però sai che sei un po' lontano. Di che zona sei? No, io sono inglese in verità, però in questo momento vivo a Roma. Ah, ok. Sì, per cui diciamo che il net label effettivamente è stato fondato a Roma, perché faccio avanti e indietro tra Londra e Roma da sempre, sono mezzo. Ciao, sono la Cri. Ascolta, se vuoi venire a farti una vacanza qua non c'è problema. Ma sai che forse facciamo prima andare noi a Roma, è più bello. La vacanza mi suona benissimo. Chissà quando, comunque grazie. No. Poi qui fa freddo, quindi si sta meglio a Roma, veniamo noi da te. Sta meglio a Roma. Diciamo che in questo momento anche Roma non è proprio bello, Va bene. Ascolta, per quello che abbiamo ascoltato prima, ti lascio, come dire, la pronuncia la lascio a te, ti lascio a te l'onere, perché era complicatissimo. Infatti, no, ma guarda, anzi, anche come nomi siamo abbastanza sull'accessibile, più o meno, perché comunque spesso e volentieri nomi impronunciabili che non oserei nemmeno. Questo è di iQubit, sì. La canzone si chiama Epiphanic, okay. Ed è l'ultima uscita, che è uscito ieri su brainstormlab.org, se dovete andarci. E lui, in questo momento, noi suoneremo domani sera in un piccolo pub a Roma che si chiama Lo Spin, che è un ottimo locale. Che vende dischi e c'hanno, è molto piccolo, però c'hanno tanto amore, fanno dei live. Stiamo cercando anche noi qualcosa del genere, guarda. Sì. È bellissimo. Poi, vabbè, diciamo che iQubit ha fatto un po' un tour di promozione a Roma, perché ha suonato anche venerdì scorso, mi pare, a un nuovo locale che è aperto a Roma dedicato alla musica elettronica, che è proprio una figata. Io faccio un po' di pubblicità, che si chiama Il Clang, che sta vicino al Pigneto, e che chiunque sta a Roma e gli interessa questa musica deve andare, che fanno praticamente due live a sera. Non male. Così da più o meno un mese, ed è abbastanza cioè abbastanza incredibile come realtà. Se veniamo a Roma dobbiamo andare lì per forza, cioè, non c'è diretta forza. Di Wolf Trips. Continuiamo col prossimo brano, che poi dopo qua vedo che hanno un sacco di domande, però le devo un attimo fermare. Il prossimo brano è Torpor. Un chiacchierone, figurati. Il prossimo brano è di Torpor, però non mi ricordo il titolo. Il brano si chiama Torpor. Lo sapevo. Ed è di un artista russo che con cui sto in contatto da molto tempo, che si chiama Nervoz, e lui ha vari alias, però è stupendo, perché è una di quelle persone con cui la lingua è già una barriera, e diciamo che non l'ho mai incontrato di persona, però sapevo che lui stava a Mosca ed era il capo di un autolavaggio. Ah, ok. E questo immaginario per me era in effetti. E devo dire, l'album da cui viene è uno dei miei personali preferiti. Ed è molto cupo. Questa è una delle tracce un po' più chiare, come dire. Perfetto. Andiamo ad ascoltarlo, vediamo se ha messo un po' della sua vita nei suoni. Già sento qualcosa sotto. Stiamo ascoltando un po' di sperimentazioni audio direttamente dalla Brainstorm Lab. con in collegamento Julian Frank. C'era Tony che voleva farti una domanda, Julian. Ciao Julian. Ciao. Ti volevo chiedere, ma la differenza adesso che c'è in questo momento, magari come una città come Londra, che si sa che come musica è sempre in evoluzione, cioè sempre in movimento, è come è con Roma, ecco. Cioè la differenza, se c'è... Se c'è. Se, beh, sicuramente c'è, però la, se beh, è grande, piccola, comunque... No, guarda, secondo me è sempre di meno. Se me l'avessi fatta, che so, già 10 anni fa questa domanda, ti avrei detto assolutamente che l'Italia stava 15 anni indietro rispetto all'Inghilterra, però non è effettivamente così, anche grazie a internet appunto, perché... Infatti anche artisti, abbiamo moltissimi artisti italiani e forse i primi che ho conosciuto tramite internet, tramite il vecchio MySpace all'epoca, erano italiani, sì. E io dicevo, ma stai a Roma? Ma come? Fai questa musica? Non ho mai visto, mai sentito. Per cui, secondo me, la realtà è diversa principalmente che è più di nicchia magari in Italia, dove ci sono meno posti che sovvenzionano il tipo di musica, e ci sono meno eventi pubblici che lo accettano, perché è ancora, diciamo, la musica mainstream è molto radicato in musica tradizionale, mentre invece se vai in un pub, che ne so, inglese, tra Britney Spears ti mandano pure la Jungle, che qua non lo sentiresti in un locale. Io una decina di anni fa avevo sentito praticamente mi ero un po', avevo un po' il mio trip mentale con la drum and bass, e a Londra ho trovato veramente solo locali che, come danno, come stavi dicendo tu, da noi magari mettono musica pop, li mettevano drum and bass. Sì, ma è proprio perché fa parte della cultura in un certo senso, mentre invece chiaro che questa musica in particolare è di nicchia in ogni caso, però già tramite internet che si crea questa scena virtuale, poi quando la gente si trova geograficamente anche nello stesso posto succedono un sacco di cose, è molto più probabile, che ne so, noi, io ho passato un sacco di anni con amici della Brainstorm Lab, altra gente, altri artisti che ci chiama, cioè facevamo praticamente il tour dell'Europa ogni anno, così con gli amici vai a suonare, per cui li trovi i posti, cioè bisogna cercare, bisogna sapere. Certo. Ma a proposito di artisti particolari, allora, quello dopo, vediamo se riesco a non impappinarmi, dovrebbe essere Nukua, giusto? Nukua, non è zecco mezzo, ma tanto guarda, qua mi prendono sempre in giro per le mie pronunce, quindi... Meno male che non siamo a Londra. Sai che ti dirò che comunque io non gliel'ho mai sentito pronunciare a lui. Ah, ok, quindi può essere qualsiasi cosa. Noi, tra altri artisti della Brainstorm Lab che ci conosciamo fisicamente, lo chiamiamo Nukua. Ok, va bene. Il brano si chiama Celestron. Direi che ce l'andiamo a ascoltare e poi dopo ci dai un po' di informazioni sul brano. Ok. Thank you. questo brano di Nukua, vediamo, sperando di averlo detto giusto, Celestron, ci ricordo, stavamo parlando qua in studio, ci ricorda un po' il genere, come ti dicevi, Synthwave. Synthwave. Anche Electro, sì, l'Africa Bambata, ecco. Quella... Ci sta, ci sta. Mi sa che ti abbiamo perso, Giulio. Ci sei? No, non ti sentivo più. Ho detto, boh, è sparito, è caduto. No, perché vi sento un po' lontani, per cui stavo facendo attenzione. E da diciamo da Varese a Roma siamo un po' lontani. Lasciamo stare, Giulio. Speriamo che non la sentiti fuori onda. No, va bene. Niente, parlaci un po' del brano. No, guarda, io questo ve l'ho scelto, un artista bravissimo, Nukua, anche molto versatile, cioè questa è una cosa molto ascoltabile, ve l'ho scelta apposta. Sì, sì. È molto anni 90 per me. Sì, infatti come, sì, sì. Come sound, cioè so che di solito uno pensa alle Spice Girls, però effettivamente... No! Vabbè, potevo dire altro, Take That, tieni! Okay. Però questo per me è un tipo di elettronica d'ascolto, direi, sì. Che comunque è molto rilassante, molto accessibile, è una traccia che mi piace moltissimo, mentre invecchio ovviamente i miei gusti vanno attenuando. Però, Giulian, io ci avevi fatto anche un bel balletto break dance. Sì, ma anche io mi ritrovo abbastanza con questo, per cui non diciamo che però è rilassante, ecco, non è proprio da fine serata, è più da inizio serata. Sì, no, vabbè, sì, però due mosse così, anche io per la sì, break, sì, vabbè, anche certo. Perché io ho provato a ballarlo la break. E però... poi dopo ti sei break. Ma anche la vecchiaia mi ha, è meglio lasciar perdere. Poi ha fatto break. Guarda che spesso, ai, quello alla schiena, figurati. No, comunque, guarda, spesso e volentieri mi si chiedono, ma come si balla sta musica? Io ho detto, guarda, non te lo so spiegare, perché poi io sto lì che mi muovo, però effettivamente capisco che non è proprio facile. No, beh. Ma poi uno quello che si sente dentro, comunque, non c'è bisogno. Sì, infatti. Sei caduto? No, sentiamo dei rumori strani, però. Sì, no, non fate caso a me. Va bene. Ok. Sta campionando per la prossima canzone. Ah, ok. Crash. È caduta la linea. No, non è caduta. No, c'è. Andiamo avanti con il prossimo brano. Questo è facile. Questo Tony, secondo me, riesce a dirlo facilmente. Questo è l'artista e questo è il titolo, dai. Dai. Allora, aspetta. Ecco. Il titolo è Inner Light. Sì. Ok. Bravo. Il nome è Mitoma. Ok. Grande. Grazie. Dai. Andiamo ad ascoltarcelo. Thank you. brano di Mitoma con Inner Light iniziava a essere già un po' più sperimentale. Non era male, però non era neanche troppo esagerato comunque da, all'ascolto. Questo io di un artista scozzese, Mitoma, anche lui performa anche sotto il nome di Nonima, e anche lui ha un'etichetta di musica elettronica. Ve l'ho scelto apposta perché dopo quello di Nuqua, che era un po' più tradizionale, questa è leggermente più distrutturata, però non perde la musicalità, ecco. Cioè, sì, è vero. È ancora accessibile. E comunque sempre abbastanza vecchia questa traccia, credo di almeno 5-6 anni fa. Sì, per ci cui... sta, dai. È in linea con quello che andava qualche anno fa, non in Italia però, ovviamente. No, ma è anche abbastanza, cioè, diciamo che molte di queste tracce possono, se durano nel tempo, possono essere anche fatti 20 anni fa, ma sembrano fatti già, ieri, dire, no? È vero, quello sì. Niente, ci stiamo avviando un po' verso la fine. Caspita, mi sa che dovremmo risentirci altre volte. Se hai altra musica del genere, mi sa che ci risentiremo. Ci sono tanti musicisti infatti. Brainstorm Lab che mancano, che mi faranno il cazziatone dopo. No. Però come, non hai suonato la mia di traccia? Ma scusa un attimo, tu a Londra cosa fai di preciso? Come scusa? A Londra cosa fai di preciso? Lavori per la Note Label o comunque? No, io sono a Roma, no? Non sono adesso più a Londra. Sì. Faccio avanti. Avanti e dietro. No, adesso la label, purtroppo questa musica non è che ci guadagni molto. Questo è vero. Per cui è tutta passione. Una delle belle cose per me personalmente è vedere le combinazioni di lavori rispetto alla musica che fanno le persone, per esempio appunto quello dell'autolavaggio in Russia, è questo scozzese, sì, è vero. C'è uno stuccatore che sta in Spagna, molto bravo. Bello! Il falegname americano. Che... Ma insomma, c'hai una Net Label di Village People praticamente. Ti faccio casa. Infatti. No, io ti volevo fare un'ultima domanda prima. Ah no, aspetta, che c'abbiamo. Perché è nata la Techno House, no? Cioè... sì, quello sì. Io avevo un'ultima domanda, visto che abbiamo parlato io e te via chat del logo, volevo chiederti: ma questa mania degli astronauti anni 70, come mai? In realtà è bello il logo che mi hai mandato, è bello, solo che non riesco a capire il. Beh, ovviamente il logo ha fatto un sacco di iterazioni all'inizio, quando proprio abbiamo iniziato a Brainstorm, che non si chiama il Lab, è venuto con il sito. Okay. Prima si chiamava solamente Brainstorm, era un brainstorm scritto all'interno di un cervello, disegnato da me, fotocopiato con modalità fanzine e fatto così. Okay. Poi mi hanno regalato, in un periodo che stavo a Londra, una decina d'anni fa direi, se non di più, mi hanno regalato, sapendo che a me piacciono questi tipi di cose, un libro della NASA di istruzioni per gli astronauti. Ah, ecco da dove veniva fuori. C'erano tutta una serie di illustrazioni e ovviamente da lì è partito il tutto, è stato un susseguirsi anche concettualmente un po' lo spazio, adesso è un po' sovrasaturato la cosa, però anche l'idea di andare negli spazi sconosciuti, ecco. Cioè, beh sì, ci sta, dai. Sì, abbiamo capito il senso allora. Sì. Ti lascio annunciare l'ultimo brano che abbiamo selezionato. Sì, me lo lasci a me questo. Sì, questo è troppo di... Ah no, aspetta, l'ultima cosa? Contatti. Ah giusto, è vero. No, prima di annunciare l'ultimo brano, lascia un po' i tuoi contatti, dove possiamo ascoltarti, magari anche gli eventi, visto che mi parlavi prima di un evento. Allora, diciamo che il sito principale è brainstormlab.org, e lì potete scaricare tutto, è tutto gratis, ci sono anche dei software, link a varie cose, ovviamente c'è anche video. Ci abbiamo un SoundCloud, /brainstormlab, insomma. Sì. Poi, quelli sono i canali principali. Da lì un po' ti puoi trovare gli artisti. Abbiamo una pagina Facebook, ovviamente, Brainstormlab, cercolo l'astronauta. Sì. Complimenti per la copertina. Per il vostro flyer. Sì. È bellissima la copertina, fantastica. Sì, guarda, poi diciamo che se ti piace infognare con le pippe mentali ci sta un sacco di roba. È vero. Poi tra l'altro, no, volevo annunciare io, più che altro i brani che abbiamo ascoltato li linkeremo anche per il download poi all'interno del nostro podcast, quindi vedremo di sponsorizzare anche noi nel nostro piccolo il vostro progetto, ottimo, che non è male. Sì, vi posso mandare i link diretti perfetto, agli album rispettivi. Perfetto, perfetto. E l'ultimo brano però... Dimmi, scusami. Vabbè. Scusami, sparo la serata di domani, sì? Semplicemente per fare un po' di pubblicità, certo. Che sta sta a Roma, ovviamente, in zona Garbatella, è un birrificio, vinilificio. Vinilificio? Vendono birre e vinili, sono molto, loro sono molto sulla tendenza electro, ma suono io e suona i Cubits, che era la prima traccia che avete sentito, sì? E si chiama Spin Beer Shop and Records. È una bella idea, da noi queste cose qua ancora non ci sono arrivate da noi, no, al nord. Beh, diciamo che è molto no, è una cosa molto indie, poi è una bellissima cosa perché io proprio non ne sapevo l'esistenza. Lì ho conosciuto tutta una realtà romana effettivamente di gente che suona, che gli piace lo stesso tipo di musica che mi piace a me e fanno i live proprio con le macchine che sono lì che suonano e fanno anche dei bei DJ set, insomma. Bello. Cioè, non è che sgomano e fanno queste cose qua. Sì, sembrava con le macchine, giustamente tu dici. Sì, con le macchine e i sintetizzatori, insomma, vabbè. Sì, no, devi capirlo che qua... Dai, sono inglese, dai, fammela passare questa. La machine. Dico, adesso ti lascio l'onere e l'onore di lanciare l'ultimo brano, visto che veramente qua io getto l'ancora sulla pronuncia. Sì, diciamo, allora, premessa di questa traccia è mio fratello che non è, diciamo, ascolta tanta musica, però non arriva ai miei estremi, ha detto che l'esperienza di ascoltare questa traccia era come avere il ragno di Alien in faccia. Ah, ok. Che secondo me lo descrive abbastanza bene, perché qua... vabbè, lo sentirete, però... Agface. Julian, qui hai due aracnofici. Sì, sì, sì. Aracnofobici, vabbè. Già stavo tremando dall'idea. Ecco, vedi. Io ho già spalancato gli occhi come se non ci fosse un domani, quindi. Ma diciamo, la pronuncia della traccia già si dovrebbe dire tutto. Che sì, sì. Si chiama Anucro. Sì. Ed è di Citriv, che comunque non c'è un vocale lì in mezzo, lo pronuncio come se fosse russo. Va bene, va bene. È un artista abruzzese. Ah, ok. Vai. Abruzzese, caspita, allora quasi dopo ti chiederò il contatto, questo qua. Prima ascoltiamo il brano, poi valuteremo. No, ma poi quando ti racconto la storia dopo capirai che sarà difficile. Comunque vai. Va bene, andiamo ad ascoltarlo e poi dopo ci salutiamo dopo. Sì. We'll be right back. se anche voi come noi vi sentite avere un face hugger in faccia, no, no. Avete ascoltato questo brano, io me ne vado. Noi vabbè, ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato, dei brani, anche se abbiamo effettivamente noi da tanto che ci siamo sentiti per questa intervista, devo dire la verità. Abbiamo rimandato qualche volta, però devo dire la verità, no, 2000... voi, e 2019 ci risentiamo di sicuro, anzi qualche brano sicuramente lo passiamo anche senza dirti nulla, così giusto per fatelo sì con... ma rimandate sempre al sito, anche agli artisti, se avete bisogno di aiuto di pronuncia. Domenico sì, Domenico sì, sai che WhatsApp te li scrivo proprio. Sai cosa devi fare? Sì, vai. Senti? No, dovresti proprio fare un vocale con tutti i nomi, così ecco. Lui alla notte se li studia. Sì, perfetto, va bene, va bene. È l'incubo. Guarda, diventa proprio così. Un sacco di chiamate per scoprirli tutti. Se no gli mandi un vocale che li contiene tutti, così poi... Sì, the cat is on the table. Sì, perfetto. Un po' di corso di inglese non farebbe male. Va bene, noi ti salutiamo e niente, ci risentiamo a breve. Grazie per il tempo e poi dopo sicuramente ci risentiamo anche. E anche questa volta ti sei dimenticato una cosa importante. Cosa mi sono dimenticato? Buon Natale. Ah, è vero, oggi siamo così, oggi siamo un po' sul natalizio andante. Va bene, va bene. Anche a voi, grazie mille. Vedremo comunque se sarà un buon Natale. Infatti, dopo lo diciamo. Infatti, va bene. Grazie, mi ha fatto molto piacere. Anche a noi. Anche a noi. Ciao. Thank you. E siamo arrivati verso la fine, quindi ormai la parte seria la stiamo lasciando un po'. L'abbiamo già lasciata. No, stasera effettivamente siamo partiti un po' col diesel, eh. Abbiamo avuto un po' di problemi. Ma perché sono arrivato in ritardo io. Fabio 1. No, no, Fabio 1 ci ha dato una mano tecnica e poi sei arrivato tu e ci siamo un po'. Ho fatto la parte pirla. Infatti. No, comunque siamo vicini a Natale, no? Sì. Ormai si sente già il clima. Sì. Non so se avete già notato le lucine fuori. Il clima natalizio. Voi come lo state vivendo? Te dove? Grinch. Oggi, quest'anno Grinch, quest'anno Grinch. Siamo un po' Grinch. Però quest'anno sono più io Grinch che te. Sì, è vero, è vero. Io. Quindi siete repellenti a questo clima natalizio? No, vabbè, un pochettino, dai, no, un pochettino sì. Il nostro amico Tony? Ma io dipende, quest'anno lo sento un po' di più, anche se questi ultimi giorni sono un po' più nervoso, devo essere sinceramente. Però vabbè, Natale. Siamo tutti più buoni. Ma no, bisogna essere più gentili, non più buoni. Più gentili. Ma questo dovrebbe essere comunque una cosa da fare, cioè, non solo a Natale, ma in tutto l'anno. Sì, quello è vero. Ne parlavo anche l'altro giorno con una persona che diceva: il Natale mi piace perché tutti sono un po' più buoni, no? Cioè, anche quelli che magari sono, non dico stronzi, un po' più rigidi, a Natale un po' si diventano più gentili. Però avanti e dietro poi. Bravissimo. Però effettivamente dovremmo essere così tutto l'anno. Cioè, non è che aspetti questi 20 infatti, giorni. Cioè, per c'è la citazione, buono. Quella classica, no? Mm. A Natale puoi. No, no, no, no, ammazzate tutti. No, è ancora più classica. Per, diciamo a che Natale siamo tutti più buoni. No, è Natale quando arriva, no? Quindi voglio dire, deve essere a Natale tutto l'anno. Io mi sto già spaventando dopo la Befana. Cioè, da che siamo tutti più buoni, diventano tutti cattivissimi. Ma perché ritorno al lavoro? Avete notato che stasera abbiamo messo una traccia che si chiama Epifight. Sì, è vero, è vero. Volevo Epifani. Dire io a Julian. Oh, Julian, Julian sono le. Julian sono le verdure. Ciao, Julian, scusa. Julian, vale. Voilà. Julian. Ma ho detto le Julian. Le Julian, ho cambiato l'accento, diciamo. Come le carote, no? Sì, alla sì. Le carote alla Julian. Ah. Comunque, adesso poi arriva Babbo Natale che porta i regali, quindi cioè. Carina la situazione. Sì, dai, io lo vabbè. Sto ancora aspettando, ma ho dato la lettrina l'altro giorno. Sta facendo la Christmas Carol praticamente. Cioè, lo spirito natalizio degli anni precedenti. Ma sì, io sono ecco, io un po' anche a me. Io suggerirei di non andare a guardare, la faccio vedere solo a voi, però visto che stiamo parlando di clima natalizio, la copertina di questo brano perché è un po' inquietante. È un po' inquietante. Auguri. Vabbè, questo qua era No Man's Land, quindi anche quella quando arriva arriva un po' come Natale. Certo. Io direi che ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano della serata e poi dopo siamo arrivati dulcis in fondo. Facciamo un bel saluto che ci sta. Andiamo ad ascoltare il brano di Randy Hobbs con Vag. No, questo è No Man's Land, è quello che stiamo ascoltando. Vag. Adesso andiamo ad ascoltare Vag di Randy Hobbs. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Allora, questa sera siamo arrivati veramente in fondo, è stata una corsa, un'apnea, tra virgolette. Adesso stavo iniziando a riprendere fiato in questo momento, devo dire la verità. Sì, siamo partiti... Io già sto piangendo. No, perché? No. Per quello che... No, vabbè, no, adesso con calma, facciamo tutto. Allora, volevo salutare, prima di tutto, Giovanni Roma, che l'abbiamo intervistato del gruppo Voodoo Tapes, poi abbiamo salutiamo anche Julian Frank, invece, dell'etichetta Brainstorm Lab, che sicuramente riavremo più avanti, e ascolteremo qualcosina più avanti. Poi niente, saluto voi, la Cri. Salutiamo quelli che ci hanno ascoltato. Questa sera non abbiamo guardato proprio Facebook. Io non ho proprio guardato Facebook. No, ma poi Facebook. Non abbiamo neanche parlato delle nostre operatrici Instagram. No, è vero, salutiamo Katia che... Ciao. È ancora un po'. Si sta riprendendo. Sì, si sta iniziando a riprendere. La Sabrina. Sì, stasera siamo stati un po' antisocial, devo dire la verità. Siamo partiti col piedino sbagliato. Ragazzi, vabbè, però. Perché mancavo io. Bravi, che bravissimo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Allora, io dico l'ultime cose, un po' di servizio. Che praticamente settimana prossima stavo guardando la mia agendina. Allora, c'è il dentista alle 10:30. No, non scherzavo, non era quello. No, avremo come ospite i Modular e credo che li avremo anche in carne ed ossa. Finalmente qualcuno viene qua a trovarci. Sì, infatti gli lancio già un... Allora, io ho parlato... Sfida. No, anche quanto di sfida, no, una richiesta, nel senso se volete anche da mangiare, male non fa. No, scherzo. Visto che siamo già più vicini al... Tu mangia! Ecco, aspetta che mi è partito un embolo in questo momento. No, loro, se andate a vedere qualche foto sul sito, quindi Fabio, settimana prossima mi raccomando, perché loro sono molto bravi, fanno musica elettronica suonata live, sono veramente forti, e loro hanno sempre tipo delle maschere colorate in faccia. Infatti ho detto, ma verrete così in radio? E lui mi ha detto, ovvio, quindi non so cosa ci dovremmo aspettare, vedremo. Ma io li voglio vedere sotto la maschera. Sicuramente. Quindi... Mi porto il pannolino che mi caga addosso? No. Siamo le mani del destino noi! Non sono paurosi. No, non è tipo per dirti che so, i psychosocial, come si chiama? I Slipknot. No, sono semplici, però sono belline le vabbè. Poi sentite. Vedremo. Dai, sì, non vi dico niente, lo vediamo settimana prossima. Non spoileriamo. Vabbè, noi salutiamo e lasciamo la parola a Fabio che aveva un qualcosa di particolare da dirci, dai. Sì, volevo fare un piccola dedica, un piccolo ricordo. Chiedo prima scusa a tutti quanti perché diciamo che non è da Wolf Trips, però in primis volevo dire che se c'è una persona che gli volete bene, che vi ha visto ridere, piangere, che può essere il papà, la mamma, il fratello, un amico, che vi ha cresciuto, anche solo una persona che ti ha detto qualche parola che ti ha fatto diventare uomo o donna che tu sei oggi, dimostrategli l'affetto, dategli il bacino, dategli un abbraccio, perché non ci sarà per sempre questa persona. È venuta a mancare una persona importante che mi ha cresciuto e ha cresciuto tante persone come me, che era la mia nonna. E volevo salutarla per l'ultima volta. Ciao nonna. Care for music, do you? Well, it goes.